Potete accomodarvi. Come state stamattina? Bene, sono contento. Allora, spero di non prendere troppo tempo, ma volevo condividere con voi qualcosa che è un punto di interesse per me da diversi mesi. La preghiera del Padre Nostro, abbiamo visto già un paio di aspetti. Uno riguarda rimetti a noi i nostri debiti, non so se vi ricordate, abbiamo visto anche venga il tuo regno. Oggi, no, non lo sto seguendo in ordine, già questo dovete capire che io non sono una persona proprio schematica, quindi dove arrivo col mio interesse vado un po' a guardare degli aspetti che spero che possano coinvolgere e interessarvi, ma soprattutto che siano di cambiamento, perché questo verso che andiamo a vedere oggi è una cosa molto, molto difficile, dove tutti ci sbattiamo la testa. E devo dire che non è neanche semplice per me portare questo messaggio, perché davvero vuol dire che devi averci capito qualcosa, però io non lo so fino a che punto ci ho capito tutto, ma ci provo. Diciamo che nel corso degli anni ho imparato qualcosina in più e è bello poterlo condividere con voi. Di che cosa sto parlando? Del verso, sempre del Padre Nostro, Matteo 6, il verso 10, che dice: venga il tuo regno, e questo l'abbiamo fatto, non lo ripeto, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Allora, sia fatta la tua volontà è una frase che mette in crisi tutti noi. Ogni volta che dobbiamo imparare a capire qual è la volontà di Dio, non è sempre semplice, perché davvero ognuno passa un po' per delle proprie esperienze, per dei propri percorsi, sicuramente non è semplicissimo comprendere fino in fondo che cos'è questa volontà di Dio. Io ci provo, ok? Vorrei condividere quello che ho capito finora, davvero non è neanche un messaggio, ma è proprio una mia personale riflessione su tutto quello che mi è accaduto nella mia vita da credente e che cosa ho capito di conseguenza. È molto importante che questo è una cosa, un valore che noi dobbiamo acquisire come credenti, perché quando ci rapportiamo alla volontà di Dio vuol dire che in qualche modo c'è qualcuno che sta esprimendo una volontà sulla nostra vita. Fin qui è chiaro, no? Ma guarda caso anche noi abbiamo una volontà. E tante volte la nostra volontà non è sempre quella di Dio. No, in qualche modo penso che voi abbiate esperienza, se nella vostra quotidianità, se nelle vostre relazioni, che a volte tu vedi una cosa bianca e a volte l'altro vede una cosa nera. Ed è difficile avere i punti di vista concordi, soprattutto per il fatto che qualcuno ti dica no, dobbiamo fare così. A voi non capita, vero? Ragazzi, siete con me stamattina, perché sennò... Ok, grazie. Alcuni pensano, per esempio, che la volontà di Dio sia una specie di destino, no? Di storia già scritta, a cui noi dobbiamo in qualche modo entrare, cercare di capire qual è il percorso che Dio vuole per noi, imparandolo giorno per giorno e vedendo che cosa succede, no? Una specie di... così... una cosa aleatoria, no? Un po' vediamo che cosa capita. Questa è la volontà di Dio? Non è proprio così. Allora, io direi che a questo punto tutti quanti possiamo farci questa domanda. Ma Dio, tu, da me, che cosa vuoi? Perché se tu hai qualcosa che vuoi, che hai volontà, perché c'è scritto in questo verso, in Matteo 6, dice sia fatta la tua volontà, è evidentemente qualcosa Dio vuole. Dio vuole. E quando parliamo di volontà parliamo di proposito, di desiderio, di intenzione. Ora, io mi sono preso la briga di fare queste due o tre risposte riguardo a questa domanda. Dio, da me, tu che cosa vuoi? Che cosa vuoi veramente, Dio? Allora, Dio vuole, prima di tutto, che ognuno di noi sia salvato. Ok? Questo l'ha scritto Paolo a Timoteo, è una grandissima verità. Probabilmente ci possiamo pure dimenticare tutto riguardo alla volontà di Dio, ma se noi capiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, abbiamo capito tutto riguardo alla volontà, gran parte. Perché c'è scritto, questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ok? Ok, io ho immaginato che Dio aveva in testa un piano, no? Riguardo alla... alla propria idea di perfezione, di relazione, aveva pensato a un posto ideale, no? Che era il mondo, l'aveva creato come voleva lui, aveva pensato a che cosa sarebbe dovuto essere il mare, il cielo, le stelle, poi ha creato l'uomo. Io a volte immagino anche questa scena un po' della creazione, che è questo posto perfetto che Dio voleva per noi. E io penso che quando Dio parla un po' a se stesso per organizzare questo progetto, perché è durato sei giorni più uno di riposo, ok? C'era il sindacato anche allora. Sei giorni per Dio, sai, Dio fa le cose così, però vuol dire che proprio sei impegnato a creare tutto l'universo, tutto il creato, questo mondo ideale, perfetto, per la nostra relazione con Lui, l'uomo e Dio. Allora, non so, a volte immagino che Dio parli un po' a se stesso, non so se quando dice facciamo l'uomo, oppure facciamo il cielo, facciamo le stelle, lui non so a chi parlasse realmente, se parlasse insieme al Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, con gli angeli, non lo so, non l'ho capito, però io penso che abbiano avuto un grande affare per creare il mondo, veramente, ci hanno impegnato un sacco di tempo, e quando qualcuno diceva no, le stelle non le voglio in cielo, le voglio in mare, qualcuno avrà detto pure qualcosa del genere, Dio ha detto, va bene, senti, facciamo anche le stelle marine, così vi state zitti. Veramente ha messo d'accordo tutti e ha fatto un creato perfetto, equilibrato, fantastico. E sapete per chi? Per noi. E questo creato era la cornice ideale dove noi avremmo dovuto vivere e dove Dio voleva che la sua volontà fosse perfetta, perché Dio voleva un equilibrio. Voleva buone relazioni, aveva un mondo ideale per noi. Ma come sapete bene, la storia è andata a finire non molto bene, non tanto bene, direi proprio un disastro, perché l'uomo ha imposto alla volontà di Dio la propria. Cos'è successo? Che realmente poi si è trovato in uno scontro con la volontà di Dio. È successo che l'uomo ha peccato. E Dio ha detto, attento, non toccare questo, non andare lì, non prendere il frutto dell'albero della vita. Invece l'uomo ha peccato ed è stato anche allontanato da questa cornice perfetta. Però sapete, quando Dio ha in testa una cosa, raga, non gliela toglie nessuno, perché Lui voleva salvare, voleva che comunque ci fosse un restauro di questo mondo perfetto che è la nostra relazione con Lui, e ha mandato Gesù perché questo si ristabilisse, no? Siamo tutti d'accordo su questo. Se oggi noi siamo qui è perché noi abbiamo avuto un nuovo inizio con Dio, e quello che il peccato ha distrutto, Gesù l'ha ristabilito. Okay? Quando parliamo di una volontà di Dio, la prima cosa che ci deve venire in mente è sempre questa: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Che cosa vuol dire? Che abbiano una relazione con Lui, che abbiano una vita con Lui, non solo adesso, ma anche futura. Quel mondo che abbiamo cantato poco fa, no? Questo canto bellissimo, in un posto dove non c'è morte, non c'è dolore, non c'è malattia. Ehi, esiste veramente ed è per te. E Dio vuole ristabilirlo e vuole iniziare già da subito, incontrandoti come ha fatto con me, come ha fatto con molti di noi qui, e vuole dire, ehi, la mia volontà per me è che tu sia restaurato, che tu abbia un nuovo inizio, che ricominciamo da capo, ok? Non era possibile, però Gesù l'ha stabilito, l'ha fatto Lui, perché ha pagato per noi. Quel prezzo difficile e impossibile da pagare è stato pagato. E questo è un motivo di ringraziamento, ed è sempre, se dobbiamo solo fermarci qui, abbiamo finito. Perché se noi capiamo fino in fondo che la volontà di Dio e che tutti gli uomini siano salvati, allora la mia vita ha un senso, la tua vita ha un senso, tutto quello che noi facciamo è proiettato verso quella direzione, ok? Non è forse semplicissimo, magari nel quotidiano ci sfugge questa cosa, però è così. Se noi siamo stati salvati, non è solo per avere un'etichetta da cristiano, avere gli incontri ogni domenica, ma è perché ci è promessa una vita futura con Lui. Una vita meravigliosa e perfetta, che era il suo piano e che Gesù ha ristabilito. Gloria a Dio, no? No? Fantastico. Secondo punto, Dio vuole delle cose buone per te. Sì, perché se a volte tu pensi che Dio ha una volontà per la tua vita e non ti piace, perché tu vuoi imporre la tua, e vabbè, è inutile che ci stiamo a girare intorno, lo facciamo tutti, eh? E ci scontriamo sempre con quello che Dio vuole, noi cerchiamo di eludere, no? Il fatto che Dio ha per noi una volontà. Però se tu, perché io ho imparato questo, se noi iniziamo a comprendere fino in fondo che Dio vuole delle cose buone per noi, forse l'abbracciamo un po' più facilmente questa volontà. Dio vuole delle cose buone per te. Geremia 29,11 dice, infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Dio vuole farti del bene. Quando Lui ti salva, ti dà anche un significato e vuole che delle cose abbiano una propria realizzazione nella tua vita. Quando noi però ci rapportiamo a questo verso, io devo dire la verità, io questo lo uso sempre nei messaggi di buon compleanno. Non so se lo fate anche voi, però io mando sempre questo messaggio, spesso e volentieri, per dire, ok, guarda, questo nuovo anno sarà un anno buono per te, perché Dio ha cose buone per te. È vero, però questo verso è anche molto frainteso, secondo me. Perché se dobbiamo limitare che la volontà di Dio è una serie di benedizioni per la nostra vita, ok, che non abbiamo l'aumento dello stipendio, ok, non avremo problemi di salute, ok, tutto andrà, le nostre relazioni saranno perfette, che tutto andrà benissimo. Senti, non sta scritto questo in questo verso. Ok, qui c'è scritto che Dio ha pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Qui non si parla di successi, mete sociali, qui si parla di qualcosa di più profondo. Perché poi di fatto nella nostra quotidianità, e io parlo da credente, ok? Quindi non sto parlando di situazioni in cui Dio non è nella mia vita o non conosco Dio, no, io sto parlando da credente. Da credente succedono un sacco di cose brutte. È vero, può succedere. Allora io mi sono preso la briga di fare una lista di cose che sono successe, che non sono proprio, come dire, pensieri di pace. Questa è la mia lista, almeno quello che voglio condividere con voi. Non è proprio tutta, solo una parte. Abusi, violenze, bullismo, furto, una causa, un lutto, abbandono, un incidente, un intervento chirurgico. In realtà aggiungo anche il fatto che ho bruciato una pentola di un ragù di coniglio. Ed è stata una tragedia anche quella. Però se posso dirla tutta, io credo che è difficile capire, ok, perché succede tutto questo allora? Perché devo passare queste esperienze? Dio non mi promette pensieri di pace, non di male, non ha il bene per me, Dio? Sì, Dio è il bene per te. Sì, Dio è il bene per te. Ma esiste anche il male. E questo non l'ha inventato Dio, è causa del peccato, è causa del fatto che c'è un nemico che vuole distruggere la tua vita. E lui è un ladro, e lui è un assassino. E quando noi ci rapportiamo a situazioni di tragedie, è buono che facciamo chiarezza. Dio non causa il male, ok? Ok? Quindi esiste qualcosa che combatte contro di noi, che tu sia credente o non credente, c'è qualcosa che vuole distruggere la tua vita. Dio lo permette? Sì, perché? Non lo so. Io non lo so. Però io sono certo che Dio è in controllo su queste cose. Che mai, mai, neanche una volta di tutte queste esperienze che ho dovuto passare non avessero, non fossero sotto il controllo di Dio. E questa è una verità grandissima, perché se tu dici, ok, non sto passando una bella situazione o non sto vivendo una cosa buona, questa cosa non sta sfuggendo a Dio, perché coglie di sorpresa te, ma non coglie di sorpresa Lui. Dio ha il controllo su queste circostanze, anche se sono brutte, perché succedono. Voglio dirti una cosa, tutte le mie giornate, tutte, ogni volta che c'è un nuovo giorno, come oggi o come lo sarà domani e i giorni futuri anche delle prossime settimane, ogni volta io penso a come dovrebbe andare la mia giornata. E sapete che cosa posso dirvi? Alla fine della giornata non è mai andata come volevo. Mai. Perché c'è sempre un'interruzione, c'è qualcosa che ti distrae, c'è qualcosa che cambia il tuo pensiero riguardo a quello che devi fare quella giornata, perché arriva una telefonata inutile oppure un'interruzione che ti distrae. Esistono queste cose ogni giorno, ogni giorno. E sapete che c'è? Quando io mi confronto con queste cose, io non vedo un mio approccio molto cristiano in queste, perché io mi arrabbio, perché io vorrei che le cose non andassero come succedono, ma andassero come voglio io. Allora, io ho imparato questo, che probabilmente più che reagire, perché di fatto non vedo poi una circostanza che esprime tutta la mia cristianità, ok, in quelle situazioni, allora io penso questo, che più che reagire, io ho bisogno di capire quello che sta succedendo. Quando io cerco di capire, probabilmente, io sto mettendo alla prova chi sono veramente. Perché se c'è una situazione negativa che devo affrontare nella mia giornata, è buono che io capisca quanto sto esprimendo del Vangelo nella mia vita. Ok? Il Vangelo è una buona notizia, è il fatto che Lui, Gesù, vive nella mia vita. Se questo Vangelo non è vivo, non sto esprimendo veramente, non sto capendo neanche la volontà di Dio, anzi non la sto capendo affatto, perché io non sono qui adesso, sto predicando il Vangelo, però in realtà io lo devo vivere, e io lo devo vivere quotidianamente, domani mattina, questa giornata. E quando non trovo parcheggio, per me non deve diventare un'occasione per arrabbiarmi, ma deve diventare un'occasione per avere pazienza. E io posso capire in fondo chi sono come credente, anche da queste cose. Lo so che potrebbe essere banale, però è così. E se facciamo qualche altro esempio, ok? Cioè, se per esempio, ok, perdo il mio iPhone, mi va a finire nell'acqua. Successo. Non vuol dire che io ho perso le mie relazioni, ok? Non è che non potrò leggere più i messaggi che sono su quel telefono e le mie amicizie non hanno più senso, ok? Io ho delle buone relazioni a prescindere dal fatto che il mio telefono funzioni o no. Ragazzi, veramente io vedo persone che sono esclusivamente legate al proprio telefono nel vivere le proprie relazioni attraverso quello strumento. Non va bene. Non ci tenere poi così tanto, eh? Quando arriva una bolletta troppo cara, io posso imparare a dipendere da Dio, nel fatto che Lui può provvedere alla mia vita. Se vivo una malattia, se vivo una circostanza di dolore, se vivo una perdita, per me è un'occasione per capire che devo dipendere da Dio e non da quello che mi sta attorno solamente. È molto sottile, non è semplice da digerire, però la volontà di Dio è questa. Se non capisco neanche quello che mi sta accadendo, io sono sicuro che in Dio ho tutto. Anche se non riesco ad arrivare fino in fondo a capire tutte le circostanze che mi capitano, però anche se non le capisco, è così. Sì, in Dio ho tutto. Questa verità per me è stata una situazione difficile da capire fino a quando è stata per me una possibilità di fare un viaggio missionario. In realtà era il mio primissimo viaggio che facevo ancora prima che esistessi 6-8, no? Quindi stavamo buttando le basi per questo progetto e mi venne proposto di fare un viaggio in Etiopia e quando sono stato lì abbiamo visitato una chiesa. Questa chiesa era fatta di centinaia e centinaia di persone, era in un villaggio sperduto, non so neanche quante ore di auto abbiamo fatto per arrivare in quel posto, e non era esattamente un posto confortevole come questo, potete immaginare, era una specie di tenda, un posto coperto, insomma, almeno questo era così. E io ho visto persone che lodavano Dio in una maniera gioiosa, estremamente gioiosa, e direi quasi folle. E ho visto delle persone che non avevano veramente niente, cioè, detto proprio chiaro chiaro, non avevano neanche le scarpe. Eppure erano lì, avevano fatto questo viaggio lunghissimo per essere lì all'incontro e cantavano questa canzone che io non capivo, perché ovviamente era in amarico, perché la lingua in Etiopia. Quando io ho cercato di capire che cosa diceva questa canzone, ho sentito la persona che me l'ha tradotta e mi ha detto: questa canzone dice grazie, grazie, perché io in te ho tutto. E io lì ho pianto, perché non potevi non immaginare il confronto che hai della tua vita con questa realtà. E io non voglio spingerti in un confronto di questo tipo per convincerti che in Dio hai tutto. Però se questa cosa ha convinto me, spero possa aiutare almeno voi a capire un po' di più che non stiamo lavorando nell'idea di raggiungere delle mete sociali. Questo farà di noi delle persone felici. Non stiamo lavorando nel vivere questo, avere questo, ottenere questo. La volontà di Dio è molto più profonda, molto più intima e ha a che fare con una relazione con Dio, perché quando noi siamo in Dio noi abbiamo tutto. Meno male che l'incontro in Etiopia è durato 8 ore, quindi avevo tempo per smaltire il pianto, quindi era molto lungo, perché è una festa, no? Dura tutto il giorno e poi la gente torna al tramonto a casa. Ma capite, io penso che il senso anche di quello che è stato predicato qualche settimana fa dal pastore Mirko, io ho un motivo per ringraziare sempre. Anche quando io non capisco che cosa Dio vuole da me, io posso dire grazie, perché in Lui ho tutto. Per favore, dite amen qualcosa, se no scendo, vado via. Grazie, vi vedo un po' presi da questo. Ok. Dio vuole darti un'altra cosa, che è la speranza. L'abbiamo letto prima in Geremia, c'è scritto infatti so i pensieri che medito per voi, sono pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Una speranza. Allora, la speranza è l'arma segreta che Dio ci dà per capire la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio va capita, va compresa. Come dicevo prima, è qualcosa che tu vivi per esperienza. E c'è un verso che parla di questo, perché noi conosciamo per esperienza. E quello che il Signore ci dà come opportunità ogni giorno è di capire la sua volontà e di mettere in pratica quello che abbiamo a disposizione. È un'arma potente per comprendere, per entrare fino in fondo e capire qual è la volontà di Dio per la mia vita, è la speranza. Questa cosa è bellissima. Io forse non ho capito bene fino in fondo per tanti anni il valore e il ruolo che la speranza può giocare nella mia vita di credente, perché sicuramente la speranza è diversa dalla fede. Ok, sono due cose diverse. sono unite, hanno a che fare l'una con l'altra, ok, però la speranza non è la fede. A volte usiamo anche questo termine speranza in un modo inappropriato, perché diamo un senso di debolezza a questo concetto, perché dove noi possiamo vivere in una direzione e capire, oh, io non lo so, spero che entro quest'anno mi daranno l'aumento dello stipendio. Okay? Questo modo di parlare non è la speranza, okay? È una specie di scommettiamo che può essere che... È una cosa che non ha una certezza dietro. Invece la speranza di cui la Bibbia parla sempre, sempre, sempre, è qualcosa di audace, di coraggioso, qualcosa che ha a che fare con... che realizza pienamente il senso della nostra vita cristiana. Sapete, quando noi conosciamo Dio, noi lo conosciamo perché abbiamo fede in Lui, abbiamo fede abbastanza di sapere che Dio ci salva dai nostri peccati, è così? Sì? Ok. Allora immaginatevi che noi siamo qua, fede, siamo spinti dalla fede per muoverci in una direzione che va qui, dove c'è la speranza. Ve lo voglio spiegare bene. Vediamo questa immagine. Allora, questa foto è, come potete vedere, è una foto di un circo, ok? E c'è... questo signore alla sinistra e poi c'è quel signore alla destra e c'è questa atleta che si lancia da una parte all'altra. Ok, se questa è la fede, questo qui a sinistra, quello a destra è la speranza, perché non ti puoi lanciare, non puoi avere una spinta sufficiente che ti può portare fino in fondo se non c'è la speranza che ti prende. La speranza ti prende, ti tira, ti fa raggiungere le cose che Dio vuole per te. Se c'è una speranza, scusate, se c'è una fede che ti spinge, c'è una speranza che ti prende. Ricordate, Sara ha predicato qualche tempo fa su Pietro. Ok, Pietro ha avuto fede pazza, irrazionale. Ha fatto così, no? Ha detto, posso venire da te, Gesù, voglio scendere dalla barca? È sceso dalla barca per camminare sull'acqua. Che fede! E poi è sprofondato, perché non ha sperato di arrivare fino in fondo. Se pensi ad Abramo, Abramo viene chiamato da tutti il padre della fede, ma io lo chiamo il padre della speranza. Perché lui ha sperato contro speranza, non ha sperato nelle cose che non avevano senso, ma ha sperato in una certezza, in una promessa che Dio gli aveva fatto. Ha avuto fede di accettare quella promessa e ha avuto speranza di arrivarci. Che bello! Io penso che questo mi fa comprendere fino in fondo qual è l'idea che io posso avere quando mi rapporto nelle mie difficoltà, nelle mie questioni, nella mia quotidianità. E io credo che c'è sempre questo limite, no? Abbiamo fede in Dio quando noi vogliamo pregare per qualcosa, vogliamo vedere una risposta, però magari non ci facciamo prendere dalla speranza, come la foto del trapezista. Ci lanciamo, sì, però a un certo punto... Ragazzi, quando c'è... La signorina lì che si lancia, che sta per essere presa dalla speranza, lei non sta aspettando gli applausi, lei non sta aspettando che avrà fatto un bel numero, lei sta aspettando che la speranza la prenda, perché se no cade giù. E vi assicuro che noi facciamo un errore molto simile. Quando noi preghiamo per qualcosa, il nostro obiettivo, tutto il nostro interesse va verso la risposta, va verso il miracolo, quando invece il nostro interesse è verso chi fa il miracolo, verso chi può rispondere. Se non speriamo in Lui, se non speriamo in Gesù, stiamo sperando nel risultato. Noi non dobbiamo sperare nel risultato, noi dobbiamo sperare in Dio, in Lui che compie ogni cosa, ci dà che ha la risposta. È anche il miracolo per te. Quando preghi per un miracolo, quando preghi per una risposta, non vedere il risultato, perché Dio sicuramente risponderà diversamente da come ti aspetti. È vero? Qualcuno ha avuto mai una risposta che era diversa da quella che aveva pensato, sì? Sapete com'è questa risposta? Meglio. Meglio. Allora, per favore, quando non rimanere deluso se tu non vedi la risposta e non vedi il miracolo che ti aspetti, perché Dio ha per te cose buone. Dio ha per te cose buone, che è molto di più di quello che tu realizzi e vivi con la tua piccola mente e dici, non è quello che mi aspettavo. Sono molto un po' deluso a volte che ci sono persone che sono si allontanano da Dio molto così, superficialmente, perché ma il Signore non mi ha risposto, non mi ha dato quello che volevo. Speravo di meglio. Sai, ho pensato di iniziare questo percorso con Dio e invece non è andata così. E io capisco che rimani deluso perché stai sperando in cose sbagliate. Perché la sua volontà la conosci quando inizi a sperare veramente nelle cose che contano. Sì, sì. Io prego per me stesso che io non abbia mai da dover rivedere quello in cui credo, quello in cui spero, perché quello che Dio mi ha dato e mi ha affidato è più grande di quello che io realizzo e che vorrei avere ogni giorno, quotidianamente. È molto di più, è molto di più. E io prego che questo messaggio possa essere per te una fonte di incoraggiamento, di ricominciare a vedere che in Dio noi abbiamo tutto, che in Dio noi vediamo la volontà completa, la sua volontà completa realizzarsi attraverso nuovi obiettivi, nuovi punti di vista, una nuova speranza. Questa speranza ha solo un nome, questa speranza si chiama Gesù. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Volevo concludere con questo verso che un po' riassume il senso di questo messaggio ed è in Romani 5 e dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza, diciamolo insieme, speranza. Ora, la speranza non delude. Ora, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Amen. Signore, grazie. Grazie perché tu hai una volontà per la nostra vita. Grazie perché hai una volontà per la mia vita, per tutte le persone che sono qui oggi. Grazie perché la tua volontà è diversa dalla mia. Grazie perché la tua volontà è migliore della mia. Grazie perché in te io posso sperare. Grazie perché questa speranza che tu mi dai non mi deluderà mai, perché questa speranza sei tu, Gesù. E io ti prego per tutte le persone che sono qua, me compreso, che possiamo riprendere con un nuovo inizio, un nuovo punto di vista riguardo alle mie giornate, ai miei piani, alla mia vita. Che posso accogliere e abbracciare quello che tu vuoi per me, non quello che io voglio per me. Perché quello che tu vuoi per me è meglio. Signore, grazie perché possiamo sperare in te, e possiamo guardare a te e un giorno saremo per sempre insieme a te. È quello che oggi ci distrugge o ci combatte o porta del male e vuole fare guerra a noi, non ci sarà più. perché tu l'hai vinto per sempre. Amen.